Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Sì, io sono autolesionista e oggi avevo pensato di parlarne con voi di questa mia malattia. Io mi taglio con una lametta e mi taglio perché vengo spesso insultata, vengo discriminata e non piaccio alla gente, e quindi a casa, quando torno da scuola, mi taglio. Mi taglio perché penso che sia l'unico modo in cui io possa sfogarmi, perché se mi taglio non disturbo le mie amiche, non disturbo i miei genitori e mi sento più grande facendo ciò. E quindi mi taglio perché voglio essere più responsabile di me e quindi mi sento più grande. E quindi quando torno a casa mi taglio. Avete mai notato che addosso a vostro figlio, anche a vostra figlia, soprattutto a vostra figlia, potrebbero esserci dei segni strani, come dei graffi, come delle ferite, qualcosa che non vi spiegate, magari vi dice ho avuto un incidente o altro. Ecco, questo è il punto più estremo di quello che può accadere in quegli ambienti di comunicazione social di cui abbiamo spesso parlato per decifrare quello che accade molte volte alle spalle di una indifferenza dei genitori. Voi direte: cosa c'entra questo con il bullismo, cosa c'entra con l'odio in rete, cosa c'entra con i gruppi chiusi di discriminazione, di violenza, di attacchi, vendette sessuali in rete? No, c'entra, ha un suo nesso, perché c'è qualcosa di paradossale che in quello che dovrebbe essere il luogo più avanzato in cui si sviluppa la civiltà digitale si mantengano dei comportamenti che, in sé, tolto l'aspetto patologico, io non voglio trattare questa mattina, questa non è una trasmissione medica, voglio parlarne come fenomeno sociale. Cioè, tolto l'aspetto patologico, hanno a che fare con un mondo antico. Gli uomini dall'origine del mondo sono sempre tagliati, tatuati, scarnificati, mutilati, hanno segnato sul loro corpo, come se fosse una mappa, quelle sono le fasi dei loro passaggi esistenziali. Dall'età fanciullesca all'età adolescenziale, età adulta, sono passaggi che segnano con segni profondi nel corpo. Oggi ne parliamo come fenomeni tribali, infatti le nostre signore, i nostri signori ostentano il tatuaggio tribale, che altro non è che un ricordo lontanissimo di quando quel tatuaggio segnava l'appartenenza a un gruppo, a un clan, a un ordine sociale. Beh, nella sua forma contemporanea, in cui tutto è mixato, si perdono completamente i punti di riferimento profondi di certi comportamenti, i ragazzi che si muovono in rete si tagliano, si fanno del male. E Mauro Manca, buongiorno. Buongiorno a voi. Psicoterapeuta, presidente Osservatorio Nazionale Adolescenza, l'abbiamo avuto più volte ospite, ma oggi l'abbiamo ospite che ha scritto un libro, secondo noi, abbastanza fondamentale, perché toglie un velo di pudicizia e di fastidio di parlarne su un problema molto importante: l'autolesionismo nell'era digitale, Alpes Edizioni. È un fenomeno diffuso, Maura? È un fenomeno purtroppo troppo diffuso, di cui si ha paura a parlarne. Fa male parlarne, pensare che un figlio si tagli, si faccia del male sotto i loro occhi, perché poi lo fanno nella cameretta, nel bagno, e non accorgersi. È implicito che anche per un genitore sia un fallimento. Se ne è accorto Instagram, però, vero, di questo però fenomeno? Però se ne è accorto Instagram e YouTube. Ci sono tantissimi video tutorial dove i ragazzi condividono ciò che fanno, condividono il loro dolore. E su Instagram soprattutto ci sono delle comunità dove loro addirittura si rinforzano questo comportamento. Si insegnano come tagliarsi, che cosa usare, come non fare, per farsi scoprire dai genitori cosa fare e cosa non fare, perché hanno paura di essere scoperti. Un po' come erano i gruppi pro Ana, pro Mia, delle anoressiche e bulimiche, che facevano questi gruppi per raccontarsi le diete fatte di nulla. La stessa cosa, siamo in rifugi virtuali. 800240024, il tema è sin troppo chiaro, aspettiamo qualcuno che ci porti testimonianza, tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Melog, cronache meridiane. Nessuno sa che io mi taglio, nessuno sa di questa mia malattia, diciamo. E quindi oggi avevo deciso di aprire la telecamera e di parlare, e so che questo video lo vedranno i miei genitori, tutte le mie amiche. Però volevo dirvi che io mi taglio perché penso che sia un modo per esprimermi, perché penso che sia una cosa giusta e nonostante ciò mi sento anche bene. Una volta che mi taglio, faccio un graffio, mi sento più libera e mi sento più contenta. E quindi 800240024 è un tema scabroso, lo so, ma è importante che se ne parli. All'inizio qualcuno deve cominciare a parlare dei temi scabrosi. Mauro Manca ha scritto un libro chiamato Autolesionismo nell'era digitale, edizioni Alpes. Mauro Manca sta combattendo perché di questo tema si comincia a parlare. Non se ne parla, nelle scuole non vogliono che se ne parli, si parla di bullismo perché ormai è sdoganato il tema. Guardate, qualche anno fa andare a parlare a un insegnante di bullismo ti guardava come se tu parlassi di qualcosa che appartenesse a un altro mondo. Come mai, no? I nostri ragazzi sono tutti perfetti, oggi di bullismo si parla. Bisogna cominciare a parlare anche di questo problema. Mauro Manca, hai provato a parlarne in qualche scuola? Abbiamo provato con l'osservatorio in tutta Italia, ma c'è una reticenza spaventosa. Qual da è l'incidenza punto? Di autolesionismo nelle scuole? Stiamo parlando di 2 adolescenti su 10 che lo fanno in maniera episodica e del 14% sistematica, cioè significa che quasi ogni giorno sono ragazzi che si fanno del male. Con cosa si fanno del male? Tendenzialmente con le lamette o comunque con oggetti appuntiti, rivolgono le loro aggressioni alle braccia, alle gambe. Però quando iniziano a capire che stanno per essere scoperti o che il genitore si sospettisce, purtroppo si fanno del male in parti nascoste, per cui è difficilissimo accorgersene. Claudia, buongiorno. Buongiorno. Niente, io diciamo 2 anni fa all'improvviso ho visto mia figlia con dei taglietti sui polsi, ma siccome fa attività sportiva pensavo che si fosse fatta male, così. Poi, ma ha domandato a sua figlia, sì, come mai aveva questi tagli? Sì, appunto, gli ho chiesto e lei mi ha detto: ah, niente, mi sono graffiata sul muro. Al che ho visto dalla faccia che non era la realtà quello che mi stava dicendo, e allora gli ho detto: ma cosa ti sei fatta? E allora mi ha, piangendo, si è sfogata e mi ha detto che usando il temperino si era stagliuzzata. È stato un brutto periodo. L'ha ammesso alla fine? L'ha ammesso? Alla fine sì, lo ha ammesso e c'è stato un momento molto, molto intenso. Ma le ha detto perché lo faceva? No, non sono mai riuscita a capirlo e non gliel'ho mai voluto chiedere, quello non lo so. Io avevo appena finito chemioterapia, può darsi che sia stato un periodo così di sofferenza sua, personale. E come ha risolto, come ha affrontato questo problema? Sono dovuta andare dalla neuropsichiatra infantile e facevano le sedute e alla fine è riuscita a farle capire che lei era una bella persona, gli ha aumentato l'autostima, tutte quelle cose lì, insomma. Adesso sua figlia sta lì ancora? No, io non me ne sono mai accorta, cercherò di guardare un po' più attentamente. Ma non è venuto l'istinto di vedere se tagliasse ancora? Quanti anni ha sua figlia? Adesso ne ha 18. Quindi fa un po', è maggiorenne, quindi... Sì, però insomma diciamo le cose si sono un po' evolute, il sospetto che lo faccia... Rimane sì. È che come genitore resti veramente, cioè quando una ragazza va bene a scuola, ha belle compagnie, non, cioè una persona, no, semplice, normale. Pensa che è tutto risolto. Esatto. Grazie Claudia. Matteo, buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletti, e ai suoi radioascoltatori. Io sono genitore di una bimba di 13 anni e abbiamo avuto dai racconti di lei, ci ha detto appunto che i suoi compagni di classe, qualcuno delle bambine usavano appunto autoinfliggersi con delle lamette e dei tagli. A 8 anni? A 8 anni? No, 13. A 13 anni? Diciamo che ce l'ha detto un anno fa, quindi sì, dalla prima a seconda media. E quello da genitori, che chiaramente ci siamo subito sentiti in difficoltà quasi, era quello di sapere e di ragionare fra me e mia moglie se era il caso di dirlo ai genitori di questa bambina. E che avete fatto alla fine? Alla fine purtroppo non abbiamo fatto nulla, nel senso che, come diceva lei, c'è veramente un grande tabù, c'è il terrore, la paura quasi di entrare in una sfera che non è la tua e di creare forse più una... La paura principale non è quella di entrare in una privacy, ma è quella di sollevare un qualcosa che poi possa nei genitori essere gestita male. Io ne sono perfettamente consapevole, lo so che questa mattina avrei fatto una trasmissione sgradevole, mi sta scrivendo un ascoltatore e rivolgo la domanda a Maura Manca, ma che cazzo dite? Secondo me i dati sono esagerati, saranno uno per mille, Beppe d'Arezzo non ci crede. Vediamo di entrare un pochino più nell'incidenza del problema, Maura Manca. Sì, capisco che... Nessuno ci crede, sembra una cosa folle. Nessuno ci crede, però questi dati sono assolutamente in linea con quelli di tutti i colleghi, sia americani, cioè siamo in linea a livello mondiale, per cui... Siamo noi a livello scientifico in Italia, Stati Uniti, Giappone e quant'altro che riportiamo tutti questi dati che variano appunto intorno dal 20 al 40%. Cioè dal 20 al 40%? Sì. Che fascia d'età questo? Dagli 11-12 anni. Quello che dice Matteo, il signor Matteo, assolutamente è vero. L'incidenza inizia appunto in quella fascia di età dove i ragazzi prendono generalmente oggetti appuntiti e quello che trovano è non riescono a gestire le emozioni interne e lo scaricano invece che con le parole, perché hanno sicuramente un ambiente che non è un ambiente in grado di ascoltarli, a volte hanno una pressione sociale troppo forte, queste emozioni li comprimono e scaricano sul corpo. Mi viene una domanda, non so se è pertinente, quanto è un appendice di questo comportamento farsi molti piercing, infilarsi bulloni, chiodi e queste cose del genere? Tendenzialmente sono due fenomeni completamente diversi. Lì c'è più un discorso della trasgressività, dell'usare il corpo per comunicare. Qui c'è sofferenza, qui c'è scarico del dolore, vergogna, senso di colpa. Mentre quando mi faccio piercing o tatuaggi, anche estremi da tanti punti di vista, sto esibendo e quindi il mio corpo lo faccio vedere. Giusy, buongiorno. 800240024, questa è la mattina in cui dovete tirare fuori un problema, se ne avete comunque notizia, perché vorremmo cominciare ad avvertire anche la scuola italiana che c'è anche questo problema. Mi rendo conto che è più difficile ancora di parlarne, ma ricordate che anche il bullismo, anche i problemi alimentari erano dei tabù. Io faccio questo mestiere da 35 anni, quando cominciamo a parlare di ragazze anoressiche ci chiamavano le madri, ma cosa dite mai, cosa dite mai? E adesso parliamo di un'altra cosa. Giusy. Sì, buongiorno. Allora, io chiamo da Firenze, ho una figlia di 14 anni che grazie al cielo non ha nessun problema, ma mi racconta tutto ciò che succede a scuola sin dalla scuola media, ora fa il primo anno di superiore e ne sono successe tante anche in classe sue di situazioni del genere. Ci racconti qualcosa, che vogliamo mettere insieme dei dati oggettivi. Sono tutte persone che hanno dei problemi ovviamente. Sì, però c'è una cosa, Giusy, sì. Noi siamo sempre portati a pensare che i nostri figli siano gli unici senza problemi, che già glielo racconti è un buon sintomo comunque. Cosa le raccontava sua figlia? Ma appunto mi raccontava appunto che, no, ovviamente non faccio nomi, Letizia si tagliava perché comunque aveva un problema. Questa è una ragazzina, per esempio, ora mi viene in mente lei, con una sindrome di cui adesso non mi ricordo il nome, praticamente non ha un aspetto per niente bello e chiaramente la gente la guarda male eccetera eccetera e si tagliava molto spesso. Noi abbiamo avvertito i genitori, ma i genitori con tutta rispetto che ti dicono no, ma lei non ha, ma si figuri, ma non è vero, ma lei è felice, cioè aveva tanti motivi magari per non esserlo. Ma anche senza avere un problema invalidante visibile, le ragazze di cui parliamo sono ragazze all'apparenza normalissime, bellissime, tranquillissime, con delle mamme felici di loro. Però quelle di cui parlo io, insomma quelle di cui mi racconta mia figlia, sono tutte persone che hanno un'assenza proprio della famiglia e conducono anche una vita non normale. E nello specifico come mai lo sapeva sua figlia? Lo raccontano a sua figlia, glielo facciano vedere? Ah sì, perché con mia figlia parlano molto dei problemi che hanno. E dove si tagliavano e come si tagliavano? Si tagliavano soprattutto i polsi, ma con anche matita, con le unghie, una ragazzina si tagliava in vari modi. Ora sicuramente qualche cosa adesso mi sfugge, però ora sentendovi parlare sentita in dovere di chiamarvi, ecco. Grazie, ci fermiamo un istante, in attesa c'è Giusy, un'altra Giusy che chiama da un'altra città d'Italia, stanno cominciando ad arrivare le telefonate. Finora sono tutte mamme che raccontano, che le figlie hanno raccontato di altre figlie. Vediamo se chiamerà, avrà il coraggio di chiamare qualche genitore che l'autolesionista ce l'ha in famiglia. 800240024, tra un istante. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Oggi parliamo dell'autolesionismo, l'autolesionismo nei ragazzi anche molto giovani. L'autolesionismo è un problema reale, concreto, molto diffuso. Mi rendo conto che è difficile parlarne, mi diceva giustamente poco fa un collega, c'è certo un insegnante per 4 soldi al mese deve occuparsi delle anoressiche, dei disgrafici, dei discalculici, di quelli con i crisi, e adesso anche andare a guardare se hanno i tagli ragazzi addosso. Però è un problema grosso, sta emergendo dalle telefonate. Ne sto parlando con Mauro Manca, che ha scritto un libro, L'autolesionismo nell'era digitale, edizioni Alpes. È un problema che emerge, si alimenta e cresce perché i ragazzi ne parlano nei social, fanno i tutorial su Instagram, c'erano dei gruppi specializzati appunto su questo problema, hanno dovuto anche cambiare il nome perché Instagram se n'era accorto che mettevano foto dei loro tagli e delle maniere di farsi dei tagli. La stessa cosa sta accadendo nei gruppi su Facebook, ma ancora non si è registrato. Perché? Perché è molto difficile parlarne. Giusy da Napoli, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Sì, come dicevo, anch'io sono stato un autolesionista. Quanti anni ha lei adesso, Giusy? Quasi 52. Quindi è un fenomeno antico, non è che nasce oggi con internet. No, assolutamente. Io avevo 14 anni e non c'erano i social dove rifugiarsi. Io mi provocavo tagli sulle gambe, sui polsi e strappavo le unghie alla radice, le unghie delle mani, delle dita. So anche il motivo, oggi lo so bene, diciamo che i miei genitori si sono anche molto preoccupati per questo, anche se la risposta è stata sbagliata, perché in realtà mi hanno portato da un neuropsichiatra infantile, e il quale, devo dire, alla fine lui diceva che la colpa non era mia, ma bensì forse era più da imputare a mia madre, che aveva un carattere molto forte e... È un'antica mania comunque dar sempre le colpe alle madri che non fanno bene il loro mestiere, capito? Può essere, può anche guardi, essere. Guardi, ma... oggi le dico, voglio un bene dell'anima a mia madre, ma mia madre è stata una donna molto problematica e tutte noi figli un po' ne portiamo i segni, questo carattere forte. Lei quando ha smesso? Però, quando ha smesso lei, Giusy? Allora, io ho smesso quando ho imparato a convivere con questa situazione di questa madre così forte, determinata, ho cercato di fuggire. Alla fine me ne sono andata di casa, mi sono sposata giovanissima, ho divorziato, ma in realtà le persone che fanno questo posso dire che non smettono mai, si trasforma, è un disagio. E cosa fa adesso? Invece che tagliarsi cosa fa di sostitutivo? Guardi, ho fatto in passato, io ho perso il mio compagno nel 2011 e posso dire che forse gli psicofarmaci e l'alcol sono un sostituto. Beh, lo psicofarmaco lo dà un medico, l'alcol se lo prende da sole, non è la stessa cosa. Quello che tira fuori poi si diventa più forti però. Io sono convinta che il fatto di aver avuto, di avere anche una figlia mi ha consentito di rialzarmi in pieno. Ora sono anni che ringraziando Dio sono serena e sono sempre più forte. Va bene, fermiamoci qua, Giusy, è chiaro, e grazie della testimonianza. Mauro Manca, una donna di 50 anni c'è sempre esistito il problema, vediamo però le differenze rispetto a quello che accade oggi. Allora, è vero che comunque anche l'autolesionismo è sempre esistito, come il bullismo, come l'anoressia, come tutti questi problemi. Oggi però c'è un'incidenza notevole perché i ragazzi lo fanno anche, cioè si contagiano tra di loro. Per il semplice motivo che se prima rimanevano chiusi in se stessi e non se ne parlava, oggi queste comunità rinforzano, per cui tante volte alcuni ragazzi si trovano a essere indirizzati anche dagli amici e trovano questi amici virtuali che li portano portano anche, ovviamente parliamo di ragazzi già fragili, già predisposti. Qual è il rapporto col cyberbullismo? Purtroppo è un rapporto strettissimo. Tantissime ragazzi, quasi il 50% di loro, ci dicono che sono presi sistematicamente in giro e di mira dai compagni. Questo non lo tollerano, non trovano un ambiente con cui identificarsi e sereno. A casa magari non riescono a comunicare, a parlare, l'unico modo è tagliarsi. Ma si tagliano anche sotto la pianta dei piedi, mi hai detto? Sì, o le linguine, perché non vogliono farsene accorgere. In posti che non si vedono. Perché in genere usano le scuse dei graffi, il muro, cadute, i gatti, gli animali degli amici, i braccialetti, nascondono tantissimo sotto braccialetti o maniche lunghe, e prima dell'estate tendenzialmente smettono di tagliarsi, perché durante l'estate poi rischiano appunto di essere scoperti. Claudio, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Sono Claudio, padre di tre figli, e ho quello di mezzo, cioè 19 anni, che da 4 anni più o meno periodicamente si taglia, a periodi alterni. Sono al corrente della cosa, perché fortunatamente con mio figlio ho un buon rapporto, un buon dialogo, per cui non mi nasconde le cose. Cioè l'ha raccontato papà mi taglio o se n'è accorto lei? Inizialmente me ne sono accorto, ma me ne sono accorto perché mi sono reso conto che lo ha fatto per far sì che io me ne accorgessi, perché lo ha fatto in casa, nel lavandino, per cui lasciando tracce di sangue, per cui proprio come un messaggio per cercare di mettermi al corrente. E dove si tagliava? Sulle braccia. E una volta che ne ha parlato, cosa avete fatto per rimediare a questo episodio? Parlando con lui ho cercato di dire che io ero con lui per cercare di capire il problema e fare quello che bisognava fare per cercare di risolvere la cosa. E che avete fatto? Lui adesso è in cura psicologica, cioè sta facendo un percorso psicologico, psichiatrico. Beh, comunque c'è qualcuno che ci sta pensando, non è che il problema è stato lasciato a se stesso. Lucia, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. La mia testimonianza è che come dirigente di pallavolo l'anno scorso sono stata testimone assieme alle ragazze di questo evento. Ho parlato col coach e con l'allenatore e lui ci ha consigliato di minimizzare, di non parlare di questa cosa, insomma. Ho parlato anche con i genitori e sembra che l'abbiano portata dal psicologo, ma non... tuttora la ragazza, diciamo che in una squadra di pallavolo è facile, perché poi ci si vede, ci si spoglia, esatto, è difficile nascondere. A me quello che non è piaciuto, che se ne parli, che se e poi venga minimizzato, cioè l'atteggiamento dei genitori, poi far finta che non è un problema, o per non è un problema che riguarda lei, ecco. Esatto, e quello ci ha sconvolto, ma come succede su tante altre cose, insomma. Grazie, Maura Manca, vediamo dalle testimonianze che abbiamo avuto, sei meravigliata che abbiano chiamato tante persone? No, assolutamente no, perché io lo so, lo vedo tutti i giorni nelle scuole, è inutile che dicano che non se ne debba parlare perché li condizioniamo e siamo noi che siamo li portiamo. Siamo pieni di telefonate, non lo sanno i ragazzi sono pienamente a conoscenza di quello che succede ai compagni, anche quando non sono loro autolesionisti, bisogna anzi togliere questo veto sull'autolesionismo, perché molte volte quello che li porta a tagliarsi e soffrono ancora di più per lo stigma che hanno paura, perché poi quando lo scoprono vengono considerati pazzi, le persone non sono abituate a parlare di questo e quindi di conseguenza se non li sensibilizziamo si sentono ancora più chiusi. Può accadere come quel ragazzo che lo fanno in maniera ostentativa per far vedere al padre che lo faceva. È indubbio che anche quando tentano di nascondersi loro vogliano che il genitore se ne accorga, è un modo di parlare in maniera diretta, non parlano in maniera indiretta. Eleonora, buongiorno. Eleonora è caduta, vediamo se la riprendiamo. Dice, lavora in delle scuole medie, dice questo problema esiste, tutti non ne vogliono parlare. Vai avanti, scusami. Molte volte per esempio dicono che gli è uscito sangue dal naso, oppure perché ci sono i fazzolettini. Le ragazze a volte sono anche più furbe perché utilizzano l'assorbente in modo tale che il genitore da lì non se vede ne possa... assorbente, esatto, non pensano e non se ne possano accorgere. Ma indirettamente il segnale lo mandano. Bisogna guardare e stare attenti e non aver paura di vedere anche questo tipo di comportamenti. Eleonora, l'abbiamo ripresa? No, allora Sorin, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Ascolto. Niente, io vorrei parlare della mia adolescenza, in pratica parliamo della metà degli anni 90 più o meno, che ho praticato l'autolesionismo, ma era, ricordo che tra i miei coetanei era abbastanza abituale, nel senso ce n'erano parecchi ragazzi a tagliarsi. Ma come eravate? Come una comunità? Ve lo dicevate fra di voi? Vi confrontavate su questo? Ma no, era un modo per... addirittura si sfoggiavano questi cose, nel senso era un modo per sembrare, non so, un po' diverso, magari più duro, che ne so. Ma legato, non so, del tipo gli emo, queste correnti di pensiero? No, assurdo, era il nostro modo nel quartiere dove abitavo io. Ma come vi tagliavate? Parliamo, e come vi tagliavate? Con le lamette, c'è chi si bruciava con le sigarette, in effetti io ancora oggi ho i segni che ti sei bruciato sul braccio, delle bruciature, sì, delle sigarette, sì. Grazie. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Ascolto. Sì, buongiorno a tutti. Se potete, allora... essere, mi rendo conto che l'argomento non è dei più facili. Sintetico, talmente tante telefonate, volevo dare un quadro più possibilmente ampio del fenomeno. Lei in che ambito se n'è accorto? Allora, io lavoro come docente di danza classica e quindi ho avuto modo di accorgermi che una mia allieva ha potuto in un periodo, penso la settimana scorsa, iniziare questo percorso di autolesionismo, cominciando con nello strapparsi le sopracciglia con le dita. Io da educatore e da docente devo adesso trovare immediatamente una strada per comunicare con i genitori, che sono i primi interlocutori, ma il mio messaggio nasce proprio per sollecitare tutti i docenti e noi educatori di guardare i nostri allievi non come numeri, ma soprattutto come persone. Quindi veramente dobbiamo stare con gli occhi attenti, aperti, e cercare di fare il possibile per compensare eventuali mancanze. Allora, ma ora manca, grazie Roberto, in una battuta, cosa fa un educatore, un insegnante che si accorge, un istruttore di sport, si accorge una cosa del genere, cosa deve fare? La prima cosa, ascoltare, però in maniera empatica, non l'ascolto del cosa hai fatto, cosa ti sei fatta, no, ma cercare di comprendere e poi comunicare con la famiglia immediatamente. E come dirlo alla famiglia? In maniera diretta, perché tanto il ragazzo lo fa e quindi è pienamente a conoscenza del suo problema. Dirgli: suo figlio ha questo problema. Tu sai già quale potrebbe essere la risposta della famiglia? Purtroppo molte volte minimizzare. Minimizzare non è niente. Non è niente, una cosa transitoria e non però non prendersi fare proprio il dovere di avvertirlo comunque sì. Ci fermiamo un istante, 800 24 00 24, continuate a chiamare per darci il più possibile una tipologia ampia di questo fenomeno, perché non è ristretto soltanto alle scuole, hai visto i luoghi dove si fa sport, dove si fanno attività comunque sociali, che ci sono dei ragazzi, accade. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24, parliamo di autolesionismo. Maura Manca ha scritto un libro, L'autolesionismo nell'era digitale, edizioni Alpes. Maura Manca sta tirando fuori il più possibile un problema che è nascosto, di cui ancora non si parla. Sentirete giustamente, e siamo i primi a farlo quando possiamo, parlare di cyberbullismo. Avete sentito molto parlare di problemi di tipo alimentare, oggi se ne parla un po' meno. Ancora nessuno parla di autolesionismo, una percentuale altissima di ragazze nelle nostre scuole, nelle palestre, nelle accademie di danza, avete sentito, si fanno del male, si tagliano anche in maniera molto cruenta. Perché? Perché poi vedremo. Laura, buongiorno. Buongiorno, volevo testimoniare la cecità dei genitori. Io ho convissuto con un compagno per 12 anni, aveva un figlio autolesionista con i denti, nerd e autolesionista. Quando l'ho rappresentato al mio compagno, se si mordeva, si faceva del male. Sì, terribilmente, non so, con i denti e con le unghie, gambe e mani e braccia. E l'ho fatto presente più volte in questi 12 anni al mio compagno, questa cosa ha lesionato al nostro rapporto. Si graffiava, si mordeva fino a uscire al sangue. Sì, una cosa terribile, guardi, proprio una cosa tremenda. E non se n'era accorto il padre? Sì, il padre, erano talmente visibili, soprattutto sul dorso delle mani ormai deformate. E il padre, per tutta risposta, non ha preso provvedimenti e ha lasciato me. perché diceva che non accettavo il figlio. Che eri tu che mettevi in giro cose ero strane. Io che mettevo in giro la storia. È terribile. No, però dal senso di quanto sia difficile ammettere. Perché? Perché il genitore poi si sente in parte responsabile, quindi non vuole ammettere che c'è un figlio che è cannibale di se stesso. Eleonora, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Io sono psicologa, psicoterapeuta referente da circa 20 anni di 2 scuole medie della provincia di Bologna e vi devo dire ahimè che i dati che la dottoressa Manca ha portato sono assolutamente reali e sono felice che questa mattina ne stiate parlando, perché io a scuola ne ho molti e il mio contributo e vedo la fatica del parlarne, non ci siamo abituati, ecco. Io la cosa positiva che vi posso dire che finora ho incontrato genitori che hanno accolto e che hanno risposto molto bene seguendo le nostre indicazioni. Sì, che lei è riuscita anche a dirglielo nella maniera giusta, Eleonora, l'approccio suo è stato positivo evidentemente, ha trovato la maniera giusta per comunicarlo. Mi dà qualche esempio concreto per far capire com'è il fenomeno, come se ne accorge lei? Allora, alcuni ragazzi sono venuti ragazze, il fenomeno diciamo che nelle mie realtà è per l'80% femminile, vi parlo soprattutto di seconda media, di terza, qualcuno anche in prima. Alcuni ragazzi chiedono loro di venire allo sportello, in altre situazioni sono gli insegnanti che raccolgono voci da parte di altri e quindi cerchiamo di avvicinare contatto in modo soft la ragazza, e spesso sono appunto gli amici, le amiche. E il fenomeno è quello che sentivo prima, che di cui sono molto preoccupata, è che il fenomeno dell'imitazione, no? Io ho alcune ragazze che hanno fatto anche costruito un profilo su Instagram dove spiegano come fare, appunto, e questo è veramente un problema. Occorre parlarne, io ne sto parlando con i dirigenti, occorre fare una considerazione sul piano anche sociale, di comunità, no? Cioè dire che cos'è, quali sono i fenomeni che oggi portano a questo, la pressione sociale che abbiamo, il mito della performance, cioè occorre fare una... Diciamo questo diciamo, è la fase B del problema. Io oggi sono contento di avere qui Mauro Manca, perché realmente sono tanti anni che parliamo comunque di fenomeni legati al disagio giovanile, però in maniera così decisa, così scientificamente corroborata, non ne avevamo mai parlato, e vedo che la risposta è reale, concreta. Il pubblico, che è una campionatura comunque statistica del sentire italiano, ha risposto subito, ha risposto in una maniera migliore. Mauro Manca, bisogna sensibilizzare secondo me tantissimo gli insegnanti e anche i genitori, cioè fare campagne, parlare, perché se noi gli diamo gli strumenti loro riescono a intervenire in maniera efficace. Roberto. Salve, io sono volevo portare la mia testimonianza, perché anche io ho praticato autolesionismo circa 15 anni fa, quando ero in adolescenza. Beh, per me è stata un'esperienza comunque formativa, adesso l'ho elaborata, nel senso che prima la vedevo come qualcosa di negativo, adesso invece l'ho vista come una forma di comunicazione, cioè di vedere visibilmente sul mio corpo un dolore o un disagio che provavo, cioè per me era questo il... Era la mappa visibile, sì, di quello che aveva dentro. Sì, la mappa di quello che... Beh, infatti dopo era accompagnato anche una certa euforia, cioè in una prima fase un po' mi sono vergognato, poi dopo lo... Era fiero di averlo fatto. Non ero proprio fiero, però ero soddisfatto, come devo dire. Sarà liberato. Questo cos'è, Maura? Cosa succede? Succede che diventa quasi dopo un po' una sorta di dipendenza, nel senso come che... Come un farmaco. Sì, ma come una droga. Molti ragazzi ce la descrivono così. C'è un bisogno in quel momento impellente di doversi tagliare, di doversi far del male. Subito dopo, nel vedere o il sangue o il taglio o quello che si è creato, anche con sigarette e bruciature, c'è uno scarico totale. Quell'euforia che dice, appunto, è lo scarico, la liberazione, lo star bene. Però attenzione, perché comunque diventa un circolo vizioso. È uno star bene fittizio e transitorio. È come il salasso che facevano antico i medici per ogni malattia, salassavano e pensavo che stavi meglio. Esatto. Giuseppe. Sì, salve Nicoletti. Volevo dare la mia testimonianza per mia figlia, perché anche lei si è tagliata l'anno scorso. Ha avuto, non so se era dovuto al fatto che eravamo in separazione con mia moglie e che comunque per fortuna lei andava già da una psicologa e ci è stata, ci ha chiamato per avvisarci, perché all'epoca era minorenne, adesso fa 18 anni ad aprile, e quindi mi chiedevo se quando si ha 18 anni sti ragazzi, se noi genitori purtroppo, anche se siamo attenti, mia moglie anche del mestiere, ci possiamo, come possiamo accorgercene a 18 anni? Accorgere a 18 anni sono adulti, questo so. Anna Maria, vediamo, l'ultima Anna Maria, un ex, che perché chiamano tutti maschi facendo il coming out, un po' meno le donne. Anna Maria. Sì. L'ascolto. Ecco, allora io ho 59 anni e dai 12, più o meno fino ai 15-16 anni, mi sono procurata delle ferite mordendomi le mani e i polsi. Credo che il motivo fosse che i miei genitori litigassero, anche se erano due bravi genitori, però litigavano in un modo tremendo. Mia madre, mi ricordo, mi portò in un ospedale dove mi dettero degli ansiolitici, dei psicofarmaci che credo mia mamma non mi dette, perché giustamente non è che incidevano sulla causa. Poi la cosa si risolse da sola, ma io ho ancora le cicatrici di questi morti. Grazie. Maura Manca, concludiamo. Hanno chiamato molti autolesionisti di vecchia generazione. Signora, che il fenomeno c'era, ma oggi è più evidente. Oggi è più evidente e c'è il rischio, appunto, con questo effetto contagio, che diventi più grave perché si rinforzano gli uni con gli altri. Per cui bisogna assolutamente parlare, farli parlare, perché altrimenti rimane sommerso e loro continuano a funzionare. Nella scuola italiana, secondo te, si può fare una campagna su questo? Si dovrebbe fare una campagna su questo, ma se ne ha paura, perché continuano a dire che se noi facciamo una campagna gli stighiamo, cosa che è assolutamente, come testimoniano tutti, folle. Chissà perché per i bulli non vale lo stesso principio. È quello che dico sempre io. Grazie Maura Manca, alla prossima. Grazie.